promesse il fido esecutor parla e brani. Contenta il veggo e l'ancor non è. Ostire i giorni di Rodrigo. Ehi, infelice, ah, non è più. E ascolta. Alla clemenza diedi abbastanza di giustizia ordeggio a rigoroso esempio. Venga Malcor, sì. Alcun noti chieder grazia per lui.